Ne so jebi sebi noi abisso. Ok, vi parliamo di noi. Questa è l'istoria, vi ne abisso. Questa è la storia della nostra vita. Boyoka, ascoltate. Remix. È molto complicato. Para una criança, la dificuldade. Do adattamento di nuova cultura, nuovo mondo, outra mentalidade. Yo, vi parlo di me. Ehi, di questo mondo strano. Mi chiamo Stilda Flax, vengo da lontano. L'odore della mia pelle è africano. Profonde origini che porto nella mia mano. Terra sacra, in Angola sono nato. A Torino cresciuto, nichelin illuminato. Targato black, racconto la mia vita. Considero il rap la giusta via di uscita. Perché è tutto scritto fra le mie dita. Pagine di libro in questa notte infinita. Antonio, Pedro, Mwanza, Kiala. È la stessa voce che da più fonti ti parla. Narra il proprio stile di vita di strada. È la underground dark side che porto sulla spalla. Chi mi conosce bene sa come sono fatto. Di giorno in giorno ne prendo atto. Situazioni di life con cui sono a contatto. Acqua, fuoco e vento dal mio asfalto. Persona easy, testardo lunatico. Vivo la mia vita in questo mondo antipatico. Niente di più, niente di meno. Racconto momenti diversi di un ragazzo nero. Oye Zali, buona baffrer, nangaya mutema. Io vi parlo di me e di questo mondo strano. Mi chiamo Stilda Flax, vengo da lontano. Vi parlo di me, descrivo tutto ciò che vivo. Il mio nome è Dildo, Dildo, vengo da lontano. Io vi parlo di me e di questo mondo strano. Mi chiamo Stilda Flax, vengo da lontano. Vi parlo di me, descrivo tutto ciò che vivo. Il mio nome è Dildo, Dildo, vengo da Michelino. Vivo la mia esistenza con tutta calma, anche se so che il tempo che scorre spesso mi inganna. Col mio cappellino sulla testa mi proteggo dal sole e dalla pioggia quando c'è tempesta. Dagli occhi indiscreti mi nascondo, continuando il mio cammino a spasso per il mondo. Miro una crescita spirituale della quale niente e nessuno mi potrà mai privare. Accumulo esperienze, riverso dentro il sacco, pronto per reagire se posso davanti a uno smacco. L'unico mio pensiero astratto, guardare più volte il cielo in attesa di un contatto. E per il resto, piedi in terra e mani avanti, visto che fra le nuvole eravamo diventati tanti, forse anche troppi, fra chi va e chi viene, fra chi non gliene fotte e chi ancora ci tiene. Intravedo uno spiraglio, per questo stringo i denti e chiudo gli occhi per evitare l'abbaglio. E se fosse uno sbaglio, continuerò a strisciare per terra come un serpente con il mio sonaglio. Sono il mio karma che si esprime, il beat e la scintilla, il gas sono le rime. L'hip hop è l'esplosione, le grida l'onda d'urto. È una deflagrazione che si avverte dappertutto. Lo stile è come un chiodo che penetra la massa, dove la figura del martello è recitata dalla cassa. Quando mi muovo dalla penombra, la fine della prima è l'inizio di una seconda. Io vi parlo di me e di questo mondo strano. Mi chiamo Stilda Flax, vengo da lontano. Vi parlo di me, descrivo tutto ciò che vivo. Il mio nome è Dildo, Dildo, vengo da Michelino. Io vi parlo di me e di questo mondo strano. Mi chiamo Stilda Flax, vengo da lontano. Vi parlo di me, descrivo tutto ciò che vivo. Il mio nome è Dildo, Dildo, vengo da Michelino. Io vi parlo di me e di questo mondo strano. Mi chiamo Stilda Flax, vengo da lontano. Vi parlo di me, descrivo tutto ciò che vivo. Il mio nome è Dildo, Dildo, vengo da Michelino. Io vi parlo di me e di questo mondo strano.